quell'idea del tempo aveva infine per me un ultimo pregio. Era un pungolo. Mi diceva che era tempo di cominciare se volevo giungere a ciò che avevo qualche volta sentito nel corso della mia vita, a brevi lampi dalla parte di Germain, nelle mie passeggiate in carrozza con Madame de Villeparisis, e che mi aveva fatto considerare la vita come degna d'essere vissuta. Quanto più mi sembrava tale ora che mi sembrava possibile, lei che viene vissuta nelle tenebre, chiarirla, riportarla, lei che falsiamo senza sosta al vero di se stessa, insomma, realizzarla in un libro. Come sarebbe felice, pensavo, chi potesse scrivere un tale libro, che impresa, davanti a lui. Per darne un'idea, sarebbe stato necessario trovare paragoni nelle arti più elevate e più diverse. Quello scrittore, che di ogni carattere del resto avrebbe fatto apparire le facce opposte per mostrarne il volume, avrebbe dovuto infatti preparare il suo libro minuziosamente, con continui raggruppamenti di forze, come un'offensiva, sopportarlo come una fatica, accettarlo come una regola, costruirlo come una chiesa, seguirlo come un regime, vincerlo come un ostacolo, conquistarlo come un'amicizia, sovralimentarlo come un bambino, crearlo come un mondo, senza trascurare quei misteri che non hanno probabilmente spiegazione se non in altri mondi e il cui presentimento è quanto più ci commuove nella vita come nell'arte. E ci sono, in questi grandi libri, parti che si fa in tempo solo ad abbozzare e che di certo non saranno mai finite a causa della stessa vastità del piano dell'architetto. Quante grandi cattedrali rimangono incompiute. Lo si nutre, se ne rafforzano le parti deboli, lo si difende, ma poi è lui che cresce, che designa la nostra tomba, la protegge dai brusii e, per qualche tempo, dall'oblio. Ma per tornare a me, io pensavo al mio libro, più modestamente, e sarebbe anzi inesatto dire, pensando a chi l'avrebbe letto, ai miei lettori. Infatti non sarebbero stati, secondo me, lettori miei, ma lettori di se stessi, non essendo il mio libro che una sorta di quelle lenti di ingrandimento, come ne offriva a un cliente l'ottico di Combré. Li avrei muniti, grazie al mio libro, del mezzo per leggere in se stessi. Dunque non avrei chiesto loro di lodarmi o biasimarmi, ma solo di dirmi se è proprio così, se le parole che leggono in se stessi sono proprio quelle che ho scritte, né, del resto, le possibili divergenze in proposito deriverebbero sempre per forza da un mio sbaglio, ma qualche volta dal fatto che gli occhi dei lettori potrebbero non essere fra quelli cui il mio libro convenisse per leggere dentro di sé. E, cambiando ad ogni istante paragone, via via che mi raffiguravo meglio e più materialmente l'impresa a cui mi sarei dedicato, pensavo che sul mio grande tavolo di legno bianco, guardato da Françoise, giacché tutti gli esseri senza pretese che ci vivono accanto riescono in qualche modo a intuire i nostri compiti, e avevo abbastanza dimenticato Albertin per perdonare a Françoise quanto d'ostile le aveva fatto, avrei lavorato vicino a lei e quasi come lei, almeno come lei lavorava un tempo, adesso così vecchia, non vedeva più niente. Infatti, spillando qua e là un foglietto supplementare. Avrei costruito il mio libro, non oso dire ambiziosamente come una cattedrale, ma semplicemente come un vestito. Quando non avessi avuto accanto a me tutta la mia carteria, come diceva Françoise, e mi fosse mancato proprio il foglio di cui avessi bisogno, Françoise avrebbe capito bene il mio nervosismo, lei che diceva sempre di non poter cucire se non aveva il numero di fili e i bottoni che ci volevano. E poi perché, a forza di vivere della mia vita, si era fatta del lavoro letterario una sorta di comprensione istintiva, più precisa di quella di tante persone intelligenti e, a maggior ragione, di quella degli stupidi. Così quando, un tempo, avevo fatto il mio articolo per il Figaro, mentre il vecchio maggiordomo, con quel genere di compassione che accentua sempre un po' i lati penosi di un lavoro che non si pratica, che nemmeno si concepisce, e anche di un'abitudine che non si ha, come quelli che dicono «chissà come vi stanca starnutire così», commiserava sinceramente gli scrittori dicendo «deve essere un vero rompicapo». Françoise, al contrario, intuiva la mia felicità e rispettava il mio lavoro. Si seccava soltanto che raccontassi in anticipo il mio articolo a Bloch, temendo che mi precedesse, e dicendo «tutta quella gente, vi fidate troppo, sono dei copioni». E Bloch si procurava in effetti un alibi retrospettivo, dicendomi ogni volta che gli accennavo qualcosa che gli sembrava buono «toh, che strano, ho fatto qualcosa di abbastanza simile, bisognerà che te lo legga». Ancora non avrebbe potuto leggerlo, ma l'avrebbe scritto la sera stessa. A forza di incollare l'uno all'altro quei fogli che Françoise chiamava la mia carteria, qua e là si laceravano. In caso di bisogno, Françoise non avrebbe potuto aiutarmi a consolidarli, allo stesso modo che metteva delle pezze alle parti consumate dei suoi vestiti, o, in attesa del vetraio come io dello stampatore, incollava alla finestra della cucina un pezzo di giornale al posto del vetro rotto. Mi avrebbe detto Françoise, guardando i miei quaderni smangiati come il legno dove è entrato il tarlo: «è tutto rovinato, guardate, fa pena. Ecco qua un pezzetto di pagina che è diventato un merletto». E esaminandolo come un sarto, «non credo che lo potrò aggiustare». «È belle andato. Peccato. Magari è una delle vostre idee più belle. Come si dice a Combray, nessuno si intende di pellicce quanto le tarme, si ficcano sempre nelle stoffe migliori». Del resto, poiché in un libro le individualità, umane o no, sono fatte di numerose impressioni che, prese da tante fanciulle, da tante chiese, da tante sonate, servono a formare una sola sonata, una sola chiesa. Una sola fanciulla. Non avrei forse fatto il mio libro come Françoise faceva quel bœuf mode apprezzato dal signor di Norpois, arricchendone la gelatina con tanti pezzi di carne scelti e messi insieme? E avrei finalmente realizzato ciò che tanto avevo desiderato nelle mie passeggiate dalla parte di Germain e creduto impossibile. Così come avevo creduto impossibile, tornando a casa, abituarmi ad andare a dormire senza il bacio di mia madre, o più tardi, all'idea che ad Albertin piacessero le donne, idea con la quale alla fine ero riuscito a convivere senza nemmeno accorgermi della sua presenza, perché né i nostri peggiori timori né le nostre maggiori speranze sono al di sopra delle nostre forze, e possiamo riuscire a dominare gli uni e a realizzare le altre. Sì, l'idea del tempo che avevo appena formulata mi diceva che a quest'opera era tempo che io mettessi mano. Era decisamente tempo. Ma, e questo giustificava l'ansia che s'era impadronita di me entrando in quella sala, quando i volti truccati mi avevano dato la nozione del tempo perduto. era ancora tempo, e io stesso sarei stato ancora in grado. La mente ha i suoi paesaggi, la cui contemplazione non le è concessa che per un certo tempo. Ero vissuto come un pittore che sale lungo un sentiero a strapiombo su un lago di cui una cortina di rocce ed alberi gli nasconde la vista. Attraverso una breccia lo scorge, lo ha tutto intero davanti a sé. Prende i pennelli, ma già scende la notte, durante la quale non si può più dipingere e sulla quale il giorno non tornerà più ad alzarsi. Una condizione della mia opera, quale l'avevo appena concepita nella biblioteca, era l'approfondimento di impressioni che bisognava innanzitutto ricreare con la memoria. E la memoria era logora. All'inizio, dal momento che niente era cominciato, potevo ben essere inquieto, anche se pensavo di avere ancora davanti a me, in considerazione della mia età, alcuni anni, giacché la mia ora poteva suonare fra pochi minuti. Bisognava tener presente, infatti, che avevo un corpo, ossia che ero continuamente minacciato da un doppio pericolo, esterno e interno. Se parlavo così era del resto solo per comodità di linguaggio, perché il pericolo interno, per esempio quello di un'emorragia cerebrale, è anche esterno, essendo del corpo. E avere un corpo è la peggiore minaccia per la mente. La vita umana è pensante, di cui bisogna dire non tanto che è un miracoloso perfezionamento della vita animale e fisica, quanto che è un'imperfezione, non meno rudimentale ancora dell'esistenza comune dei protozoi in polipai, del corpo della balena, eccetera, nell'organizzazione della vita spirituale. Il corpo tiene chiuso lo spirito in una fortezza. Presto la fortezza è assediata da ogni parte e alla fine bisogna che lo spirito si arrenda.